You make it, allow me to make this childlike in nature, rhythm. You have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a man. But a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, not for long. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. E però oggi Region Air non sarà solo musicale come nelle ultime settimane. Andremo anche ad affrontare un tema. Il 20 gennaio ci sarà una giornata un po' calda, mi sa, tu che ne dici? Speriamo, verranno la Merkel e Sarkozy in visita a Roma. E quelli che hanno spinto il governo delle banche per l'Italia verranno a visitarci, verranno a chiacchierare con il nostro presidente del consiglio e noi forse gli faremo una bella accoglienza, chi lo sa. Un bel benvenuto, insomma. Noi non vogliamo mettere le mani avanti del tutto, nel senso non sappiamo niente per certo, però sicuramente le mosse che hanno fatto negli ultimi tempi non sono state proprio a favore del 99% che sta nella merda. Direi di no. Dico. 16-18 minuti primi, sempre con Region Air, Radio Onda Rossa 87.9. E questa mattina c'è stata l'inaugurazione da parte di Alemanno del giardino Alberto Giaquinto, intitolato a un fascista ammazzato dallo Stato negli anni 70. E sono andati a contestare l'inaugurazione di questo giardino, il locale circolo di rifondazione, con alcuni giovani di Ostia Antifascista. Ci sono andati e dopo pochi minuti della loro contestazione una quindicina di giovani di Casa Pound, teste rasate, i soliti, quelli che conosciamo, che vediamo tutti i giorni fuori le nostre scuole a volantinare, si sono staccati, caschi alla mano, e nell'indifferenza delle forze dell'ordine sono andati a picchiare i compagni. Per fortuna non è successo niente, sono stati identificati i compagni e non gli aggressori, non i fascisti. E il giardino è stato inaugurato. Strano, così. Direi, no? No, molto mai, strano, vero? Molto strano. Soprattutto un mese dopo che quei pezzi di merda hanno ammazzato i due senegalesi, e che il giorno dopo, da ferito, ne è morto un altro. Insomma, dopo quella strage, dopo che tutti i giornali dicevano no, Casa Pound non va criminalizzata, non va criminalizzata perché la responsabilità è personale, non è di loro che fanno campagna razzista, no, che vanno in giro a fare l'antinazi. No, loro non c'entrano, che c'entrano loro? Loro non c'entrano niente, stanno assolutamente lì tranquillissimi a fare quello che gli pare. E quindi questa mattina giustamente le forze dell'ordine hanno lasciato stare gli aggressori e hanno identificato gli aggrediti dicendogli: ma noi non abbiamo visto niente. Lasciamo a voi le conclusioni. Fantastico. Allora fategli un applauso mentre ci ascoltiamo un altro pezzo e poi andremo a parlare quello che vi presentavamo pochi minuti fa. Ed eccoci ancora qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa FM. Ricordiamo per chiamarci il numero di telefono 06491750 e l'email diretta@ondarossa.it. No, ti sei sbagliato, è quella sopra, ondarossa@ondarossa.info. Scusate. No, dai, tranquillo, perdonatelo, vabbè. Insomma. Dai, per una volta. Andiamo avanti con la trasmissione, siete in ascolto di Radio Nair e vi anticipavamo poco fa, proprio due minuti fa, quello di cui saremmo andati a parlare. Insomma, abbiamo saputo che il 20 gennaio saranno qui a Roma in visita la Merkel e Sarkozy, i due personaggi, insomma, di questa Unione Europea. I personaggi chiave dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea, soprattutto, perché sappiamo che è da lì che viene il potere. Esatto, insomma, quelli che più o meno hanno guidato le manovre di Grecia e Italia per questo recupero della crisi finanziaria, questo recupero del debito che loro non vogliono aiutare. Che più di una crisi aiutare. Reale, vi ricordiamo che insomma quest'ultima crisi di cui tanto sta parlando e che noi stiamo pagando maggiormente è la crisi delle banche e non tanto la crisi nostra, insomma la crisi creata dalle banche. E allora niente, ci verranno qui in visita proprio nel cuore della fase 2, insomma, monti questa famosa fase 2, questa che sarà la peggiore, probabilmente la più amara per gli italiani. Possibile, insomma, quella che Monti definisce di ricostruzione, vediamo quanto ci toccherà a noi, insomma, quanto tocca ricostruire a noi, vediamo se esatto. Siamo noi a dover pagare questa ricostruzione. Ecco, a parte insomma noi come il 99%, visto che siamo nella trasmissione degli studenti media organizzati, noi come scuole, noi come università. Chiaro, la ricerca e insomma una ricostruzione del nostro futuro che adesso, per adesso è già spazzata via. Diciamo che noi ormai il futuro non ce l'abbiamo più, parliamoci chiaro. Pare che abbiano messo nuove assunzioni di insegnanti, ma a noi questo ci basta poco, sono troppo pochi per quello che hanno levato negli ultimi anni alla scuola italiana. Certo, è chiaro, e poi non è solo il taglio delle ore che... che non è quello il problema, prima o poi li avrebbero dovuti riassumere, vanno in pensione. È chiaro, e allora andremo a vedere come e se ricostruiranno la nostra scuola, insomma, se veramente hanno voglia di cambiare le cose anche nel sociale, oltre che nei loro affari finanziari. E intanto entra qui in studio finalmente con una bella caramella in bocca il nostro Luccetto. Allora, che ci dici? Ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Mi sembrerà ben strano, svegliato, con Radio Onda Rossa nell'orecchio il motorino piotta di più. Fantastico, grande. È un compagno il tuo motorino, allora. E se no, che motorino è? Vabbè, allora niente, sarà stato un attimo breve questo discorso, però lo continuiamo dopo, non vogliamo continuiamo fare la cosa la pesante, musica, non vogliamo attaccarvi questa, diciamo, ci siamo fatti una domanda per adesso: cosa diventerà la nostra scuola, se cambierà, se verrà migliorata o se verrà spazzata di nuovo via del tutto. Intanto un altro pezzo dei Gorillaz, che in realtà non avevo scelto io. Sam mi accusava a me di aver scelto i Gorillaz da solo, ma in realtà me li ha ordinati stamattina Luccetto, o sbaglio? Confermo, gli ho chiesto per favore, guarda Matteo, arrivo tardi, mettimi almeno un pezzo di Gorillaz. E lui ha detto che uno solo, li metto tutti. Certo, allora mettiamoli tutti. E intanto da Diamond Days, O Green World. Intanto vi ricordiamo le buone vecchie maniere, 06 49 17 50, se vi piace. Yeah. e siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, Regione Air, la trasmissione di studenti media auto-organizzati, la trasmissione di quelli che conducono le lotte delle autunnali e non degli studenti medi. Siamo qui e continuiamo con questa domanda, questa famosa fase 2 di cui tanto parla il nostro Presidente del Consiglio Mario Monti. Ci andrà a distruggere la scuola? Continuerà a dare soldi solo alle private? Continuerà a licenziare insegnanti? Chi lo sa? Questo noi non lo sappiamo veramente per adesso, insomma la domanda non è retorica. Abbiamo un po' paura sinceramente per le cose che sono successe negli ultimi anni, insomma per le riforme che si sono susseguite, quella Fioroni, la Gelmini la più grande, il periodo dell'onda. Niente, temiamo che venga distrutta ancora di più la nostra scuola, che ormai è diventata miserissima con quei tagli terribili. E perciò, insomma, questa qui è una domanda che ci poniamo sinceramente, nel senso, di nuovo torno a citare Guzzanti, quando stiamo andando, quando stiamo facendo, insomma non sappiamo anche più per questa, dove stiamo andando. Ed è anche per questa paura che noi vogliamo il 20 andare a contestare quelli che sono i mandanti di questo governo di merda, diciamolo, questo governo delle banche, che non è stato scelto da nessuno, ma che è stato scelto veramente solo dalla Merkel e da Sarkozy. Forse un aiutino dalla banca centrale, ma sicuramente noi non c'entriamo. Certo, e insomma è proprio questo che andiamo a contestare. Non è che magari uno potrebbe pensare, ma che ne sapete quello che si vanno a dire? Non lo sappiamo, ci avete ragione. Però non ce lo dicono. A noi non ci hanno interpellato e sicuramente bisogna sentire anche le realtà reali, le vere realtà, la vera qualcosa, realtà, no? Sociale che vive questo paese, insomma, come quando si va a toccare il precariato, si va a toccare la pensione e ascoltano solo i sindacati confederali, non vanno a sentire i veri movimenti dei precari. Oggi il Sam mi strappa le parole di bocca. Scusa, guarda, scusa. Allora, vabbè, niente, noi non litigate per la trasmissione, insomma. No, non si litiga, però volevo proprio rivolgere la parola a te, ti volevo lasciare la parola perché appunto noi abbiamo fatto questa considerazione, ci siamo fatti questa domanda: dove andrà a finire la nostra scuola? Ci sarà un'ulteriore riforma anche da quel punto di vista? Tu che ne pensi? Beh, io penso che come stanno attualmente le cose, vedendo come è andata la fase 1, la cosiddetta fase 1, la fase 2 deve essere ancora più pesante, cioè andrà a tagliare sempre di più noi. Quindi ci troveremo probabilmente a essere decurtati di varie cose all'interno della scuola, come possono essere laboratori, insegnanti, come hanno fatto finora. E probabilmente non si esclude che inizieranno ad accorciare l'anno come hanno fatto in Francia per spendere meno soldi. Quindi appunto, nonostante la chiamano ricostruzione, perché ci cioè, così la chiamano, ricostruzione. La chiamano ricostruzione. Però apparentemente sembrano ricostruire col TNT qua, con le bombe ricostruiscono proprio. Sembra una frase, hanno rubato l'idea degli anarchici. Creiamo distruggendo. Creiamo distruggendo. Allora, sti qua copioni. Vabbè, insomma, se volete diteci anche la vostra, insomma il telefono è quello 0649 1750. Se c'è qualche studente o studentessa in ascolto che si pone le nostre stesse domande, insomma è benvenuta a chiamare e dirci la propria opinione. Intanto adesso ci chiamava in fuori onda un compagno di Ostia, che è più informato sulle vicende di stamattina. Vi aggiornavamo sul fatto che c'è stata un'aggressione da parte di alcuni militanti di Casa Pound nei confronti di un gruppo di compagni, e perciò niente, lo andiamo a richiamare e facciamo una diretta con un compagno che era sul posto e che ci saprà sicuramente dire meglio ciò che è accaduto. Intanto andiamo avanti con la nostra scaletta dei Gorillaz con Tomorrow Come Today. Oh, Mentre cerchiamo di recuperare questo collegamento con Ostia, troviamo da internet una notizia abbastanza scioccante. Insomma, facciamo un piccolo appunto giusto per ricordare ciò che vuol dire il boicottaggio delle multinazionali e ciò che accade ogni tanto. Insomma, ce la legge Sam. Leggiamo letteralmente: un topo dentro una lattina di Pepsi, impossibile, si sarebbe sciolto, è la risposta della compagnia. Nell'Illinois un uomo ha trovato un ratto dentro la Bibbia e ha fatto causa, e la società ha risposto in questo modo molto inquietante, ha detto no, si sarebbe sciolto. E che vuol dire? Noi ci sciogliamo quando beviamo la Pepsi. Vendono l'acido muriatico, insomma, questo si sa. Noi non ci sciogliamo, ma forse il nostro stomaco ormai è bello che bucato, ragazzi. Cioè, probabilmente, ma insomma, questo finiti. Qui è solo un lato, un motivo per boicottare Coca-Cola e tutte le multinazionali, che tra l'altro poi Pepsi, uno pensa, vabbè, vado a comprare Pepsi così non compro Coca-Cola, sicuro, ma poi poi è lo stesso uguale. Gruppo, cioè proprio stessi proprietari. Insomma, ma oltre a questo, insomma, ci ricordiamo tutti gli episodi di sfruttamento e tutte le ingiustizie, sia ambientali che sociali, che queste multinazionali ogni giorno fanno in tutto il mondo. E allora, non lo so, giusto due parole: boicotta Coca-Cola, boicotta anche la Pepsi. Pure la Pepsi, pure la Fanta e pure la Sprite, se vuoi. E nel frattempo, mentre ancora aspettiamo e tentiamo di collegarci con Ostia, leggiamo e sentiamo del corteo di cinesi, insomma, di tutte le etnie che sta avendo corso in Piazza Vittorio in questo momento, un po' per denunciare gli ultimi fatti, gli ultimi assassini, appunto, che sono capitati sia a Roma che in altre città, che non sembrano solo nascondere un fine monetario, quindi andare a rapinare un negozio, ma appunto sembrano nascondere anche qualche razzismo. E quindi in piazza, oggi Piazza Vittorio, ricordiamoci, sta il corteo e la manifestazione per i cinesi uccisi per quella rapina, che secondo molti non era solo per fine monetario, appunto, ma era un po' come gli eventi di Firenze. E allora tutti in piazza per questo corteo, non solo contro la violenza, ma anche contro il razzismo. Che tra l'altro io e Matteo, venendo in radio, abbiamo incontrato per strada. Tutte le strade bloccate, insomma, speriamo che questo corteo sarà molto partecipato e soprattutto immagino che più tardi, noi non penso che ne avremo tempo, ormai ci mancano 20 minuti e dobbiamo anche effettuare quest'altra diretta. Ma le prossime trasmissioni, vi ricordiamo che dalle 5 ricomincerà il martedì autogestito da femministe e lesbiche. E probabilmente loro avranno occasione di effettuare qualche diretta dalla piazza. Intanto che ci colleghiamo con Ostia, ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo dei Gorillaz che sicuramente conoscerete, All Alone. La Viti Castle, Deuteronomy. snatch piece of my pondering. This didn't fire like yondering. Skin of my tooth like, skin of my hook like, flying my suit like, where's the waitress? Can't take this, really can't face this. These airs and all these graces. It's my mistake, I made it. Shade up to the boom, now make it. Bounce, wiggle, shaking all them veins out. Chemical cutthroats, bound to blow the brain out. Hurt to the pain, this ain't no game, I show no shame. I birthed this pain, I twist the cane, I twist the game. I push the blame, it's plain as day. Known to what these sayers say, known to what these doers do. It's you and who and you know where. We's about to take it there, we's about to make it clear. We happy on, we lonesome. The lone drum, the beat hot, the start to finish. 10 spoons of spinach, the soul and the spinach. The cup that runneth over, we turn up the ogre. minuti 35 secondi. Va avanti la nostra scaletta di Gorillaz, Demon Days. E mo basta con questi interventini a effetto, che a me non mi piacciono per niente. A me mi piacciono, li faccio lo stesso al mixer, ci sto io. Però così non si fa, dai. Che dovevamo ricominciare con sta polemica? L'abbiamo già fatto un giorno che si spegne, alzi abbassi, basta, ci piace. Ti ricordi quanti squilli che ci hanno fatto? Vai, vai, squillate, squillate, squillate. Allora, almeno un altro squilletto per i Gorillaz, 0641 1750. Thank you. E allora ecco la diretta promessa. Quando sono le 16:48 minuti primi è in diretta il compagno di Ostia che ci andrà a parlare di ciò che è successo stamattina, dell'aggressione di Casa Pound, ma lasciamo subito la parola a lui se ci sente. Ci senti pronto? Sono pronto, sì. Pronto, allora dici. Dunque, le cose si sono svolte così. Questa mattina noi, Rifondazione, insieme all'antifascista di Ostia, siamo mossi per cercare di manifestare il nostro dissenso in piazza contro la pagliacciata delle mano della messa della targa sua con la Vergine Quinto. E mentre ci stavamo dirigendo appunto dell'appuntamento, attraversando il marciapiede opposto dove si incontravano questi disgraziati, quelli di Casa Pound si sono sganciati lì dal raduno e ci sono venuti subito addosso dicendoci che non ci dovevamo stare, che non ci dovevamo passare da lì perché loro stavano facendo questa cosa. Hanno individuato dei ragazzi più giovani, due, eravamo in quattro, e i ragazzi, le loro vittime, perché sono ragazzi della scuola, e hanno cominciato ad attaccarli, a dare spintone e a minacciarli che le loro nominare. Mi davano mele dietro, questi Luca Marcella e compagnia bella, tutti quanti loro. E noi abbiamo cercato, eravamo io e una compagna, abbiamo cercato di coprire questi ragazzi per evitare che fossero menati, appunto. E dopo 5 minuti praticamente sono venuti sempre altre gente da raduno a richiamarli per riportarli all'ordine. Però sono tornati indietro, a quel punto è subentrata la polizia che ci ha sempre con noi, dicendo che noi stavamo facendo una manifestazione non autorizzata, che quindi dovevamo mettere i documenti e tutto il resto, minacciandoci di portarci anche nel commissariato. Questo è successo, poi ci hanno tenuto bloccati per una mezz'ora all'angolo della cosa lì, questo è successo mentre Alemanno parlava, attenzione, quindi ha visto chiaramente quando questi si sono sganciati per venire ad aggredire noi attraversando la strada. Ecco, di questo non ci si meraviglia, nel senso si è visto più volte come le forze dell'ordine siano spesso dalla parte dei fascisti piuttosto che dalla parte degli attaccati, insomma non vorrei fare la scena delle vittime, comunque è un altro scenario che diciamo si ripete un'altra volta. Quello che ti volevo chiedere è: ci sono stati feriti oppure diciamo no, nella sua gravità? No, non ci sono stati feriti, perché fortunatamente noi li abbiamo coperto i ragazzi, perché noi praticamente spintone solamente cosa ci hanno fatto, e poi perché è entrata immediatamente la polizia a posto loro, no? Che come dici tu giustamente ha pensato che eravamo noi quelli che eravamo elementi disturbatori dell'ordine pubblico, capito? Non quelli che ci avevano attaccato. Alla contestazione della compagna nostra che ha detto: guardate che questi ragazzi, se voi ci chiedete i documenti, perché non chiedete a loro che ci hanno aggredito? Certo. Detto, no, perché non li conosciamo, sono ignoti, quindi se volete fare denuncia dovete venire in commissariato a fare la denuncia. E infatti abbiamo anche letto che Alemanno ha denigrato voi, ha detto che voi dovevate uscire da questa logica antagonista degli anni 70, da queste avversione tra le varie ideologie. Noi abbiamo letto questo, non so, quello che ha detto in piazza Alemanno non lo sappiamo, però tra l'altro poi no, è chiaro, Alemanno questa cosa, sono 4 anni che ci provavano a fare questa cosa a Ostia, per 3 anni siamo riusciti a bloccarli, e naturalmente questa cosa non è stata fatta nella nessuna idea, perché loro hanno tenuto tutto nascosto, il municipio non ha fatto sapere niente, questa cosa noi siamo venuti a sapere al TG del sabato, capito? Quindi noi abbiamo mandato immediatamente un comunicato domenica invitando tutta la cittadinanza antifascista a presenziare questo atto per manifestare il proprio dissenso. Questo è l'appuntamento che abbiamo dato, non un proprio presidio, perché non eravamo sicuri di certo di questa cosa avveniva. Poi stamattina abbiamo visto sull'agenda del sindaco invece che veniva alle 10, a quel punto ci siamo mossi, capito? Certo, perciò è stata una cosa repentina. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, e poi chiudiamo il collegamento, ti volevo chiedere se a questo punto adesso ci sarà un'assemblea o un piccolo corteo, un presidio per questo episodio di stamattina, oppure continuerete semplicemente nel vostro percorso di antifascismo che ormai a Ostia si fa abbastanza sentire. No, noi continuiamo nel nostro percorso, naturalmente ci incontriamo, ci abbiamo fatto il punto, poi stamattina a mezzogiorno ci siamo incontrati quelli che eravamo presenti, non eravamo una grande forza, ma comunque i compagni che stavamo lì ci siamo visti, abbiamo deciso che continuiamo nel nostro percorso e naturalmente con la costituzione di questa rete che è antifascista a Ostia, manifestando ogni modo come possiamo il nostro dissenso a quello che sta avvenendo in questo territorio. Ho capito. E la ripresa della voce di questi fascisti del carcere, insomma, che hanno dato veramente. Va bene, allora ti ringraziamo, chiudiamo qui il collegamento e non ci resta che fare che mandarvi lì a Ostia la solidarietà di Radio Onda Rossa, e naturalmente qualora servirà un altro spazio per qualcos'altro noi siamo sempre qui. Benissimo, vi ringraziamo. Grazie a te, ciao. Ciao. Era questa la corrispondenza per quello che è successo stamattina a Ostia. Una tentata aggressione da parte di Casa Pound a un evento a cui i compagni erano accorsi per contestare. Un evento dove è intervenuto Alemanno. Allora niente, vi invitiamo più tardi, se non avete ascoltato la corrispondenza, a visitare il sito www.ondarossa.info, dove la troverete online. Ci avviamo piano piano in chiusura. 16:54 minuti primi, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo ripetiamo ancora una volta all'inizio della trasmissione, in vista di questa fase 2, particolarmente per la visita il 20 gennaio di Sarkozy e della Merkel, ci ponevamo questa domanda. Vogliamo fare qualcosa? Vogliamo andare a dargli il benvenuto? Questa è la nostra domanda, no, a noi stessi e al movimento intero. Vogliamo e non solo, capire. Ma anche una domanda, diciamo, un po' teorica di riflessione su quello che potrà accadere. E sicuramente adesso con questa fase 2, insomma, possiamo cominciare ad annusare qualcosa, ma ancora non sappiamo bene cosa andrà ad accadere e soprattutto cosa ci toccherà in particolare a noi studenti. Sicuramente ne parleremo nelle prossime settimane. Intanto vi lasciamo alla fine dell'ascolto di quest'altro pezzo dei Gorillaz e poi alla sigla. E dopodiché alle 5, tra 5 minuti, vi lasceremo al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Finalmente tornate dopo 2 settimane di assenza, ne abbiamo sentito la mancanza, dai. Senza di loro. Senza di loro il martedì non è più lo stesso. E 87.9 sempre Radio Onda Rossa, ci avviamo proprio alla chiusura di Radio Nair. E vi lasciamo con queste due domande: cosa succederà alla nostra scuola e cosa vogliamo fare per dare il benvenuto alla Merkel e al Sarkozy. Ci se avete scrivere. Idee scriveteci. Ci potete scrivere naturalmente la mail. Lanciamo della trasmissione questa specie di sondaggio sulla nostra mail, sul nostro sito, sul nostro Facebook. Insomma, ci potete trovare su Facebook Radio Nair. Semplice, basta cercarlo. Oppure regionair@ondarossa.info per scriverci una lettera. E allora niente, la Regionair per oggi si conclude qui. 17:57, se 17 magari. Beh, io direi che è un ben tornato per le femministe. Stiamo chiudendo pure in anticipo. Un bel grazie per dai, vi lasciamo alla sigla. Almeno oggi ve l'ascoltate tutta. 16:57 minuti primi. Sempre 87.9 di ROR. Rimanete in ascolto per le femministe e lesbiche del martedì autogestito. Vi lasciamo sempre alla nostra sigla degli Assalti Cattivi Frontali. Cattivi maestri.